Sto pronto canzone dedicato a un caro amico che ci ha lasciato, Mario Zanzani, il fondatore di Angelica. Spero che stia sentendo questo pezzo. Ascoltate.